L'uno e mezzo di questa maratona, eccoci qua. Sì. 2, 4, 5, 6, dico. Giuste e giuste per arrivare alle 6. Mi sembra il minimo. Quando sistemo il microfono dico anch'io la mia. Dai, in tranquillità. In tranquillità. Allora, tante voci che si sommano a quelle che insomma avete sentito adesso in questa oretta e mezzo di apertura e che invece insomma è solo l'inizio di questo lungo traghettare, sta in fissa con questa cosa. Niente, l'ha dovuto dire, esatto. Era di questa fatela lunga contenta. Maratona di 24 ore dove noi vi traghetteremo insomma, fino alla sì. mattina. Esatto, quest'anno noteremo un po' stile libero con voi sulla schiena, però va bene uguale. Perché bene sì, vi portiamo sulla schiena. Cominciamo ad invecchiare. No, comunque scherzi a parte, come sentite invece tante voci, perché mentre l'anno scorso eravamo un gruppo più scarsetto, quest'anno per fortuna invece ci siamo moltiplicate e quindi ancora più figo, no? La paura passa in un attimo. Sì. Fatevi amate, sentire, non fatevi amatevi timide. E moltiplicatevi, come lo slogan di... che hai detto, scusa. No, no, perché dicevi ci siamo moltiplicate, però com'è venuta questa cosa? Proviamo un po' a risalire. Non so, un problema loro, cioè. Non so. Nonché una fortuna nostra che siamo diventati. Esatto, in cioè, quindi il resto non ci interessa. No, va bene, così per interloquire. Partiamo da ora. Comincia fatevi subito. Sentire, ragazzi, altrimenti pensano che vi stiamo immaginando. Comunque, tanto per dire, vero, essere in tanti non vuol dire essere migliori dell'anno scorso. Ma io ne sono certa. Sicuramente. Sì. Allora, niente, a questi microfoni dovete abituarvi di avvicinarvi voi, purtroppo è così. E insomma queste voci le avete sentite, che succede stasera, che come comincia stasera, ormai stanotte, come traghetteremo queste persone, che cosa ci metteremo lì? Direi che c'è una cosa che non manca mai, ma dalla prima maratona, che è l'oroscopo. Chiaramente vi così segno per segno scannerizzeremo ciò che vi accadrà, diciamola così, mettiamo e sì, paura e vi aiutiamo ad affrontare meglio quello che succederà. Infatti in questa lunga notte, che tra l'altro poi ricordiamolo precede anche una lunga giornata di domani. Infatti dico questa notte non si parlerà di lotte, cioè, perché c'è tutto domani per parlarne, c'è tutto il giorno, esatto. Non è che possiamo continuare tutto il tempo, cioè già la nostra presenza qua è una lotta. Lotteremo contro il sonno. È sicuramente una resistenza al sonno, esatto. Quello. Guardandoci anche già adesso, ecco. Sì. Ricordiamo tutte quelle che vogliono venire a portarci il caffè, che noi li apriamo tranquillamente, gli facciamo anche un applausino, la dedica, quello che vogliono. Sempre. Comunque. Tutte quelle, ecco. Ricordiamo pure tutte quelle che sono private della libertà. Quello sempre. Cioè. Dai. Ci stanno ascoltando da diverse parti, insomma, e un pensiero particolare va loro. Senza tralasciare che anche di là vedo che c'è un bel pienone, eh? Comunque, pieno di gente. Sì, ecco, vieni, non fa la timida, signore, vieni. Sei voluta entrare con questo sorriso malizioso? Maliziosissimo. Una cosa proprio. Che fate? Che vi raccontate? Che ci raccontiamo? No, stavamo così cominciando a presentare quello che aspetterà le compagne che ascoltano. Che ancora non si è capito. No. Cioè, veramente sei mezz'ora che stiamo a parlare. Esatto, non si è capito che dovremmo fare stanotte. Stiamo provando a fare le misteriose. No, vabbè, abbiamo parlato dell'oroscopo. E poi come sempre si dice, lo costruiremo insieme. Allora io porto un pezzo, Ok, no, invece di cose poi ce ne sono tante, sì, devo dire. Siamo qua tutte molto divertite. Poi mentre una leggerà, un'altra preparerà quello che succederà nelle ore dopo. Io secondo me, come ci insegnano poi queste maratone che abbiamo fatto insieme, ci saranno anche delle belle improvvisazioni, però c'è anche da dire, partiamo da noi stessi. Esatto, così di conseguenza facciamo tutto insieme, esatto, partiamo dai nostri corpi, dai nostri desideri, partiamo da quello che vogliamo, cioè alla fine è un po' questo che abbiamo provato a fare in questa maratona, cioè ognuna insomma ha portato i propri desideri all'interno di una 24 ore, quindi di tanto tempo per parlarci, per dirci. Te per esempio, Samantha, che hai portato? L'oroscopo. L'oroscopo. Non è vero, un modo per raccontarci. In realtà anche un'altra cosa che ora non sta dicendo, un po' segreta. Ma ormai l'oroscopo da 3 anni. Anche tanta musica, tante parole. Io per esempio porto la mia esperienza da Via Libetta. Esatto, ci sarà questo collegamento. Sì, a un certo punto mi sposterò dalla radio e farò una diretta da Via Libetta, perché sappiamo che quella è una via per Roma, cioè una via di Roma molto importante, e credo che nell'8 marzo purtroppo si riempirà di qualcosa che non ci piace molto, però è giusto analizzare. Okay, questo ci sta. Giusto. Ci sta. Ecco. Capire comunque fa sempre bene. Capire cosa succede qua fuori. Sì, anche perché qua fuori poi è il qua fuori dove viviamo in mezzo anche noi, immerse, ecco. Quindi diciamo che capire è sempre meglio. Capire è sempre meglio. E poi cos'altro ci sarà? Molta musica? Allora, siamo? Musica sicuramente tutte, del resto insomma, donne allegre e pazze di musica. Poi ci saranno letture, io in particolare ho portato questo monologo di Santa Dubito contro l'amore romantico, così molto in generale, che può valere veramente per tutte, per tutti, per tuttarelle, tuttarelli, quello che vi pare a voi, è proprio sopra, quindi tocca farci i conti, diciamo un po' così. E poi insomma, casomai non attaccato, poi ci saranno varie incursioni, esatto, da più poesie, parte, insomma, sì, telefonate, oppure qualche brano da racconti militanti senza fare lotta. Visto che la lotta, no, lotta è domani, sonno, la lotta no, è domani. Io credo che quello che sta accadendo è che abbiamo tutte un sacco di cose per le mani e non, no? Sappiamo come cose diversissime, perché appunto c'ho questa cosa contro l'amore romantico, poi c'è un libro su invece il manicomio a metà dell'800, questo manicomio di donne incredibile, e poi ci sono gli scritti su invece le donne, no? È chiaro che qua poi portiamo tutto un po' il patrimonio. Come direbbe Bia, lo costruiamo insieme. Esatto. Lo costruiamo insieme. Non siate subito così sbra. Uno cerca di fare un discorso serio. Io ho due o tre parole che mi spendo così quando non so che dire. No, comunque appunto, allora credo che poi quello che sta succedendo è questo, no? Ognuno ha un po' con la pauretta di dire, oh scusa, io ho portato questo, il bisogno di dirlo all'altra, però così poi si fa esattamente insieme. Poi parliamo degli stessi microfoni. Allora adesso tanta musica, un po'. Un po'. Allora c'è un saluto che vogliamo fare presto, perché lo vogliamo fare a una compagna che doveva stare qui con noi, e che invece virus. Apro tutto, sì, poveraccia, capito? Invece virus. Raffa. Ti mandiamo un abbraccio collettivo in sei. Sì. Stretto, stretto, calduccio, calduccio, guarisci. Lotta contro il virus. Lotta contro il virus. Fai finta che noi ce l'abbiamo, qui lo stiamo a pista. No, infatti, un'ingiustizia, perché invece sarebbe stata. La marchigiana stasera. Ci mancava la marchigiana stasera, infatti l'abbiamo detto prima. Tristi per questo. Quindi Raffi, mannaggia, dai. I saluti vanno fatti, perché veramente invece si era preparata un sacco di cose, veniva qua e io ero molto contenta, perché insomma. Sì, sì, sì. Più siamo, meglio è. E invece allora un abbraccio, un saluto, un bacione da tutte. Sube desde la nube y deposítate en tu calle. Cogí un avión, coño, una. cuando lleguen de mi abuela y todo el mundo se pondrá contento. Te llegó la hora, papi, como a Monkey Magic. Súbete esta nube y deposítate en tu calle. Cogí un avión, coño, una llora al revés. Tú no lo ves, llegó la hora de volver. Rita Indiana, Rita Indiana in questa maratona. Allora, piano piano ci prepariamo per l'oroscopo. Caso. No, infatti, un segno a caso. Cominceremo dai pesci, nulla di personale, semplicemente perché siamo nel mese di marzo. Semplicemente perché qua ci sono 18 pesci in tra 6 persone, quindi proprio niente di personale. Nulla di personale, che è il momento migliore per nascere, tutto sommato. No? Io niente, invece sono sfigatissima al freddo, in un giorno tra l'altro, vabbè, non apriamo la parentesi. Dilla tua però. Polipo. Perché lei è di febbraio, quindi si sente più polipo che pesci. Capito? Caldo. Una vongoletta, una vongoletta, il guscio, sono una vongola. Basta questi segni tradizionali, io sono per uscire un po' dai segni tradizionali, per inventarci le... L'otto? Mi sento un po' vongola. Però sei rimasta sempre nell'ambito dei pesci, eh? Certo. Sei uscita dalla tradizione, non lasciando... Dai, dai, facci sentire. Vabbè, il concetto rimane, comunque dai, iniziamo. Facci sentire sti pesci. Come l'oroscopo, come ogni anno è preso da stronza, dove vite precarie, sfide cosmiche, filosofie ergonomiche, svolte epocali, ironie modeste e destini infami. Come abbiamo detto, iniziamo con i pesci. Marzo si apre con la luna nuova nel vostro segno. Tante le novità e le possibilità che potete trovare durante il vostro cammino. La forma è ottima, risultate simpatici e affascinanti. È un periodo che siete ben visti. E allora fatevi vedere. Mantenete... Sì? Ci sono? Non interrompere questo momento importante, segno... No, allora, quindi... Mantenete alta la fiducia, tutto può accadere nel qui e ora e nel futuro, adesso, non nel futuro, cioè qui ora, nel futuro, cioè comunque adesso. In amore l'aria è più fresca e divertente. Per i single... Sei single? Per i single? Che lo accenti così. Single? Sei single? Che fa ridere la parola single un po'. Per i single? Qualche amicizia potrebbe diventare qualcosa di più. Ai ai ai. Attenzione, vai vai, io non interrompo più perché mi inibito, eh. Però da sabato 1 che è passato, comunque già andata, al pomeriggio di domenica 2 già andata, giornate intense, potete verificare. Le hai già vissute, esatto. Le possiamo vedere, erano vere? Ma potete anche verificare se dal tardo pomeriggio di domenica 2 alla sera di martedì 4 sono stati giorni intraprendenti. Lo potete sempre verificare. Forse vi è successo qualcosa di speciale. E magari dalla cena di martedì 4 alla notte di giovedì 6 siete stati più gioviali. Non lo so, magari. Tutti al maschile sto oroscopia? Sì, infatti non va bene. No. Però una cosa nuova ve la possiamo dire: dall'alba di venerdì 7 alla mattina di domenica 9 sarete distratti e nervosi. Dal pranzo di domenica 9 al lunedì 10 saranno grandi giornate. Quindi certo. Adesso giornata del nervosismo. Oggi sarete distratte e nervose. A rilassatevi con la maratona. Apposta ci vuole tranquillità in questa notte. Vado di musica, posso? Direi sì, sì. Stavo un po' nervosa. Cubana, tenéis una nacionalidad que no os favorece. No le daremos visa en España ni en ninguno de los países de la Comunidad Económica Europea. Sois posible emigrante. Posible emigrante. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. Hey, no me dejaron entrar en España porque como soy negra, pues esa gente soy extraña. Y con este pelo así dijeron, tiene la cabeza y las musarañas. Y por mis tatuajes pensaron, esa negra no se baña. Llevando el idioma, viniendo la pompa, cogí la guadaña. Me fui a la montaña cortando caña, no tengo la gaña, no como la hazaña. Babilón, tú no me engañas. Y en el yo me estoy, para arriba de la sierra, para afuera piraña. Y esta negra no se empaña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. dicen que Cuba tiene mala maña. Dicen que toda nuestra gente se quiere quedar aquí y allí. ¿Acaso olvidaron cuando vinieron a colonizar? Sí, desde antes de mi abuela la gente quiere emigrar. De España misma llegaron para mi familia fundar. Que la tierra entera es nuestra y el derecho de viajar. Huir, escapar, no es solo una actitud de quien teme. Es un desafío de quien más no puede sostener su realidad. Es la dignidad de quien decide cambiar, aunque a donde vaya no haya nada. Latinoamérica tiene derecho a emigrar. África tiene derecho a emigrar. Caribe tiene derecho a emigrar. Asia tiene derecho a emigrar. Tercer mundo tiene derecho a emigrar. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Las mujeres vamos a gobernar y los hombres a cocinar y a lavar y a beber, cuidar. Todo lo que han ensuciado van a limpiar. Mira, esto es nuevo matriarcado, nueva inspiración. Tierra madre, super revolución. Natural, viviendo solo de vegetal. Amar a quien tú quieras nunca será ilegal. Viajar por todas partes posible, no real. Las razas a mezclarse, el sexo liberal. La tierra será una sola llena de hermandad. Un saluto lo facciamo pure a Zanza, che non sappiamo se ci sta già sentendo o ancora. Deve un attimo, terrasismo, come dire, stendere l'abbacchietto. Quítate, quítate ya. Quítate la sera, mira que te tu. Noi intanto ve la salutiamo. Cruda a cambiar el mundo. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Seguro. Aquí estoy, aquí te pido. Tú sabes cómo es con mi corazón. Sigo introduciendo el flow cubano para las hermanas mexicanas y los mexicanos. ¿Cómo es? Estamos aquí en el barrio sin salario, estilo proletario para la gente a diario. Este pasa crudo aquí con mi gente que suba. Yo vengo de Cuba, sí. En México que está súper chido para mí. Súper mágico, te lo dije a ti. Oye, ay, güey, mira cómo estamos. Todo este retoño aquí, dame una mano y dame una palma que no voy a callar. Voy a seguir porque voy a improvisarte. Con Away, Ernesto y la Pelusa. Estamos aquí. Esto sí se usa. Esto es un video. Super clean. Haciéndolo en el barrio. Oye, sí. Con toda esta gente. Hoy aquí. Este es Pasa Cruda. Que... Lotto, lotta, lotto, lotta, lotto, lotta, lotto, lotta, lotto, lotta, lotto, lotta, lotto, lotta, lotta, lotto. Oh, una oda con sentimiento. Soy talento, chura terrenal, abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar. Me quería celular por gota, hacerme sentir inferior, que si los nervios y la falta de control, qué horror. Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. A la alegría de la vida tenemos derecho, las de más de 40 de cintura y 52 de pecho. Mira, la gota llegó a tu casa, 180 avanza, me tengo confianza y a partir de ahora disfruta de la danza de esta gota con su panza. Es pasa cruda que nunca tranza, esta es la gota que llegó a tu casa, ¿oíste? ¡Vamos! Llegó la gota llegó. Llegó la gota soy yo. A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, soy gorda. Nena flaca, sexy, en la TV siempre lo mismo. Silicona, ya hay aquí torsos perfectos, qué lindo. Anorexia en tiempos de guerra, Paulina, Jennifer, Beyoncé, qué perras. Pasando hambre, haciendo dieta hormona para las tetas y las niñas sofocadas. Posee papi, posee muñeca, aquí bola, pero no de nieve, que tiene hermosa y cilíndricamente misteriosa. Cuando pasa por los gimnasios más llenos que el camello, en la vidriera, los super fuertes, los super machos, rompiéndose el cuello, mirando que mi cuerpo bello, gigantesca, exceso, volumen. A quienes consumen cuerpos colonizados, los tengo estresados, ven, me vas a cargar, ay chico, te va a genial. No me escondo para comer, tengo amor de mujer, estoy en paz conmigo misma, sabia de mi cuerpo y mira a través del prisma, que ves el reflejo de la luz que dejo al caminar. Rolletes de grasa en mi cintura, no me voy a operar, ni embutirme en una faja, ataja. La gota se reveló, sintió, rimó, se confesó, explicó, y una vez más, como siempre, te lechó. Baja de peso tú, porque yo no, ¿oíste? Fati, Fati, Fati, papi, ¿oíste? Esto también es para ti, mami. Llegó la gota llegó. Llegó la gota soy yo. A mí que me digan gota, redonda, esfera. A mí que me digan gota, soy gota. A mí que me digan gota, redonda, voluta. A mí que me digan gota, monarca absoluta. A mí que me digan gota, redonda, esfera. A mí que me digan gota, soy gota. Redonda como la tierra que tantos mitos y leyendas encierra. Redonda como acetatos para la old school, las novatas y los novatos. Redonda como un CD que contiene este background que se hizo para mí. Circular como las monedas, como el pan. Redonda hasta donde quiera, como las mías que están como están. Y mira ya por donde van. Resistiendo como gota, como negra, como guerrillera. Yo, ballena, más espacio en el mundo, más se ve sin pena. A mí que me digan gota, que me mencionen, que recuerden que el himno de esta gota y sus canciones. Que me señalen porque existo. Peso gladiadora como me gusto, ay, no me resisto. El silencio no me protege, no me voy a callar. Vivan las gotas sin domesticar, las pasadas, las pesadas, que no creen en nada. Las de talla 40, 50, las que no se inventan. Gotura en tiempo de guerra, sinfonía que se apela, la más real, vital, poesía, imposible de ocultar, gota y flotante como mi Cuba, en medio del mar. Beso bloque, mijo, pa' que te sofoque. Esto es 90 kilos, ven, ven y dilo. Llegó la gota llegó. Llegó la gota soy yo. A mí que me digan gota, redonda, espera. A mí que me digan gota, soy gota. A mí que me digan gota, redonda, voluta. A mí que me digan gota, monarca.